Approfitto della momentanea assenza fisica dell'Oliva per raccontare una storia di recinti e di buoi. Faccio un piccolo passo indietro. Siamo agli sgoccioli del secondo millennio, attorno alla vigilia di Natale, poco prima. Il preside di una scuola del nord Italia decide di fare qualcosa di importante. Che siano proibite, proclama, tutte le gite scolastiche presso i campi di sterminio nazisti che non contemplino contemporaneamente anche una visita ai luoghi delle foibe. La notizia in sé offre molti spunti di riflessione, non ultimo l'uso dell'avverbio contemporaneamente, sul cui uso involontariamente a sproposito si potrebbe indagare, ma non è il caso. Se il preside in questione fosse stato in grado di recepire obiezioni sensate, probabilmente non avrebbe nemmeno proposto una tale cretinata, quindi le obiezioni sensate le lascio stare. Ovviamente la cretinata era talmente cretina che non poteva che avere successo. A poco meno di un mese già un'altra quindicina di scuole la fa propria. Immagino l'entusiasmo dell'ente turistico della regione Friuli. L'abbinamento campi di concentramento foibe, geograficamente, non offre molte altre soluzioni. Sono ancora lì che triangolo posizioni sulla cartina quando mio fratello, quindicenne, mi comunica che quella cretinata verrà discussa anche nella sua scuola, in un apposito consiglio di classe. L'occasione, lo ammetterete, è imperdibile. Riallaccio almeno formalmente i rapporti con i miei, prometto di presenziare a pranzi che non mi vedranno mai fra i protagonisti e strappo il permesso di partecipare in loro vece, forte anche di una tradizione polemica ben nota in famiglia ed in alcuni casi misteriosamente incoraggiata. Mi presento con quelle che definirei le migliori intenzioni o le peggiori a seconda dei punti di vista. L'aula è gremita. Da una parte i sostenitori dell'idea cretina, che sono lì, proclamano per chiudere il recinto prima che scappino i buoi. Dall'altra parte quelli che i buoi sanno benissimo dove li vorrebbero fare scappare. Nessuno si sogna nemmeno per un istante che i buoi potrebbero stare anche per conto loro fuori dal recinto e decidere senza ingerenze sia dove andare in gita sia dove andare nella vita. Secondo un uso sempre più invalso a sinistra, identifico come miei amici i nemici dei miei nemici. La linea che assumono è immediatamente perdente, nemmeno perdente in partenza, ma perdente prima ancora di partire. Non si contesti la cretinata, ma si entri nel merito della cretinata, la si faccia nostra e infine la si volga a nostro favore. Il primo intervento in tal senso è un vero capolavoro. Va bene. Facciamo che ad Auschwitz si vada solo se li si porta nei luoghi delle foibe, però si passa anche per Dresda. Le mie triangolazioni geografiche già non hanno più alcun senso. Oltre al comprensibile sconcerto dovuto al fatto che dell'ignobile bombardamento degli alleati su Dresda non ne sa molto nemmeno il professore di storia, un'uscita del genere non può che portare ad una rapida escalation. Non faccio a tempo a pensare divertito di proporre una capatina di Hiroshima che, puntualmente, uno dei presenti lo dice. Non ironico, serio, è il professore di italiano, dice proprio testuale, si potrebbe pensare di fare una visita ad Hiroshima o almeno organizzare un ciclo di documentari, nemmeno che la visita e i documentari fossero la stessa cosa. Dopo qualche minuto sono certo in maniera assoluta che in quell'aula verrebbe valutata e discussa anche un'immaginifica proposta di proibizione dei vestiti di colore rosso, colore ideologicamente fuorviante, ma purché la si faccia finita anche con il nero. La mia vena polemica all'interno del consesso, lo avrete notato, già cessopita. In un angolo, quasi che tutto questo non li riguardasse, 20 studenti cui mi sono seduto a fianco in un'illusione di complicità. Gli studenti, i compagni di mio fratello, quella vena polemica l'hanno subito mortificata. Anche in loro c'è una certa unanimità. Su due argomenti. Non è tanto il primo di questi argomenti ad avermi frustrato. Loro in gita vogliono andare a Roma, nel weekend di Roma-Milan peraltro, aspirazione del tutto legittima cui non mi sento di dar contro. Sono un gruppo di quindicenni che pensano a quelle che potrebbero essere le loro serate mondane nei dintorni di San Sabba. È la seconda delle questioni su cui sono tutti d'accordo a mortificarmi. Che si tratti di Auschwitz, di San Sabba, di Dresda o di Hiroshima, con Amira, la compagna marocchina che puzza, non ci vuole dormire nessuno. I buoi sono già scappati da tempo, chi con la decisiva complicità di chi ritiene di sorvegliarli, chi loro malgrado. La discussione che avviene lì, a due passi, non solo non può più riguardarli in alcun modo, quella discussione in tutta evidenza non li ha mai riguardati.